pista in alto, volume 1. Sto in tauta quanto. Guarda come dondolo. Guarda come dondolo. Guarda come dondolo. Guarda come dondolo. Guarda come dondolo. Guarda come gongolo. Con la Wii, la ganja. Con il fumo a nuvolo. Con la testa a svalvolo. Fumo Wii, la ganja. Dopo 50 anni dondolo. Ma quale twist? Zero hit da TV. Anche Vianello smoka Wii. Sentimi, ascoltami, che l'ho già detto. Fumami, prendimi, rollami. E alla fine gustami. DRD la cima rossa. Io barcollo ma non mollo. Ma se rollo questa giolla, tranquillo, non mi controllo. Ti passo la mia canna, ti dono la mia Maria. Se non fumi in compagnia, o sei un ladro, sei una spia. Vai via, scappa via, se c'è la polizia. Falla fumare anche a loro, tanto che vuoi che sia. È quasi magia, come diceva Johnny. Lo ripeteva Bobby. Sarà perché io dondolo. Saranno gli occhi miei che brillano. E vedo 10, 100, 1000 lucciole. Ed ho capito che la ganja fa per me. E adesso le mie gambe tremano. Ed ora le ginocchia scendono. E intanto i miei neuroni se ne scappano. Perché la ganja fa per me. Guarda come dondolo, guarda come gongolo. Con la Wii, la ganja. Rimo in un mio pisolo, rido come un mongolo. Fumo Wii, la ganja. Dopo pranzo, dopo cena, poi prima di andare a nanna. Come i pavesini è sempre l'ora di una canna. Sembro Dante con Beatrice che scriveva la poesia. La mia musa ispiratrice rimane sempre Maria. Verso tipo Colombo se mi manca la cartina. E poi per ritrovarmi ho bisogno di una piantina. Non so come cuoco con la ricetta in cucina. Io preferisco la verdura all'uso della farina. Ora sapete, voglio l'erba e lei vuole me. L'erba voglio e la pretende pure il re, perché non fa male, è speciale. Io ci faccio viaggi assurdi, ma più assurdi sono i viaggi per non legalizzare. Sarà perché io dondolo. Saranno gli occhi miei che brillano. E vedo 10, 100, 1000 lucciole. Ed ho capito che la ganja fa per me. E adesso le mie gambe tremano. Ed ora le ginocchia scendono. E intanto i miei neuroni se ne scappano. Perché la ganja fa per me. Il ballo è sempre questo. Di certo non è un twist. Io contesto dondolando. Mi accendo un altro split. Il ballo è sempre questo. Di certo non è un twist. Io contesto dondolando. E poi mi accendo un altro split. Il ballo è sempre questo. Di certo non è un twist. Io contesto dondolando. Mi accendo un altro split. Il ballo è sempre questo. Di certo non è un twist. Io contesto dondolando. E poi mi accendo un altro split. Grande Biohead, swing sheet like that.